In ogni caso, nessun rimorso. Alle prime luci dell'alba, il gruppo di Refratarios, che con la morte di Alni e l'altro gruppo mai arrivato al tunnel e di cui non si sa nulla, sono svegli e si riscaldano davanti a un piccolo fuoco tenuto vivo tutta la notte da Aki, che non riusciva a dormire. Bevono caffè, a parte Shlen che preferisce sempre il suo matè, e discutono del piano da attuare una volta arrivati in pieno centro città, dove la rivolta, dopo l'assalto al comune, ha avuto una pausa. Nel frattempo a Nazero 13 sono arrivati anche gli intossicati dell'area nord, che si sono uniti alla grande massa composta dagli intossicati della metropoli e dalla popolazione. Tutti hanno una così tale rabbia in corpo, pronta ad esplodere in una vera e propria guerra al momento che decidono di attaccare definitivamente il muro di un migliaio di Tarspok che proteggono la Torre M e Navig. Il generale è rifugiato all'ultimo piano insieme alle alte cariche autoritarie e da 3 giorni è incollato alle finestre della sala conferenze, sperando che tutto ritorni alla normalità prima o poi. Gli Insect, che hanno ordine come Tarspok di non attaccare, tengono d'occhio la rivolta dall'alto e, muniti di una telecamera oculare, inviano immagini video alle torri. Altri gruppi di rivoltosi, quelli che erano a protezione del loro quartiere, hanno già deciso che è arrivato il momento di saltare le barricate e attaccare i Tarspok che sorvegliano le strade con i loro blindati. Sui primi piani di tutti i palazzi che delimitano le strade sorvegliate vengono messe le casse acustiche degli impianti stereo, recuperate da tutti gli appartamenti. Un ragazzo giovane, nell'ultima delle assemblee unificate di quartiere che avvengono da qualche giorno tutte le sere, ha avuto l'idea di stordire i Tarspok prima di attaccarli, ricreando una di quelle apparecchiature ad ultrasuoni che sono impercettibili all'orecchio umano. Lo stesso ragazzo di nome Anish è un bravissimo ingegnere del suono ed è lui stesso che ha creato e ha masterizzato su circa 200 CD e ha distribuito, chiedendo di farne altre copie da distribuire agli altri a loro volta. Non è ancora l'alba quando parte il piano di attacco e mentre i blindati di Tarspok sono arrivati a metà della lunga strada che ha percorso anche il gruppo di Refratarius a cui apparteneva Arni, alcuni gruppi di rivoltosi dei quartieri che si distendono su entrambi i lati della stessa strada alzano velocemente delle barricate fatte di auto e bidoni della spazzatura. L'intento è quello di non dare scampo agli uomini topo. Non appena le barricate sono erette, contemporaneamente da tutte le terrazze inizia a diffondersi l'ultrasuono. I Tarspok quasi immediatamente cercano di scappare dalla zona, ma arrivati a fine della strada si trovano di fronte alle barricate e circa un centinaio di rivoltosi. Come dei veri e propri animali in trappola, i Tarspok cercano di risalire la strada al contrario e scappare dal lato opposto, ma arrivati all'altro capo la scena non cambia, altre barricate e un altro centinaio di rivoltosi. Storditi dall'ultrasuono cercano invano di scappare per le stradine laterali, ma tutte sono chiuse dalle barricate. Come una morsa, i due gruppi di rivoltosi iniziano a camminare verso il centro del lungo stradone, restringendo man mano lo spazio di movimento dei blindati. I rivoltosi restano a guardare in modo impazzito dei Tarspok che, tra lo stordimento acustico e la paura dei rivoltosi, sono quasi sfiniti. Quando i rivoltosi capiscono che i Tarspok sono completamente in balia del panico, parte l'attacco. I blindati, spinti a mano, si ribaltano sui fianchi. Gli uomini topo, chiusi all'interno, sembrano non aver accusato il ribaltamento dei mezzi e continuano a scalciare sulle pareti dei blindati portandosi le mani alle orecchie. Ai primi due blindati vengono distrutti parabrezze e seguono lunghissimi secondi di raffiche di proiettili che dilaniano i corpi dei Tarspok prima che abbiano tempo di reagire. I due blindati sembrano enormi botte da dove schizza sangue da tutti i fori. Nel terzo blindato, una volta rotti i vetri laterali, i rivoltosi lanciano le molotov all'interno arrostendo gli uomini topo. Gli uomini topo dell'ultimo blindato sono quelli che subiscono ogni tipo di tortura. Essi vengono estratti ancora vivi e storditi dal mezzo e prima di essere impiccati ai lampioni delle luci vengono denudati e legati mani e piedi. C'è chi gli pisce addosso e chi affonda le canne dei fucili nell'ano dei Tarspok che per lo sfinimento psicofisico non sono riusciti a trasformarsi completamente in topi per defilarsi meglio dall'ira dei rivoltosi. In altri quartieri l'ira degli insorti si scaglia contro le chiese, perché oramai è chiaro che non è la mente del popolo, che quelli che hanno predicato per una vita intera lo hanno fatto solo con l'intento, con l'unico motivo di sottomettere i fedeli. Preti, suori, vescovi, cardinali sono giunti all'interno delle chiese perché hanno capito che le loro chiacchiere non hanno più terreno su cui seminare e moltiplicarsi. Mentre il popolo lotta, loro banchettano all'interno delle proprie fortezze, pensando che queste, anche se il popolo non crede più in un Dio, non verranno mai attaccate e sperano che venga ripristinata la normalità. Non pregano e non lo fanno perché non ci sono fedeli davanti a loro da ingannare. Loro stessi sono coscienti che non esiste e non è mai esistito nessun Dio, ma che il tutto è servito nei secoli per arricchirsi del sangue dei fedeli e per sottometterli attraverso le leggi dei comandamenti. È la prima vera costituzione di uno Stato scritta nelle pagine della Bibbia. Quel Satana, inventato nelle loro scritture, l'angelo ribelle, si è materializzato in ogni individuo di quel popolo che ora, come accadeva all'epoca della Santa Inquisizione, è fuori ai portoni delle chiese con Molotov a posto delle torce, spranghe, pistole e fucili. Alcune chiese vengono assaltate e chiunque vi sia rifugiato dentro subisce la sadica ira degli insorti. Preti inchiodati ai crocefissi, suore svestite e legate sugli altari e panche, come tanti altri preti impiccati ai ballatoi. Tutti gli assalti terminano con la purificazione totale fatta col fuoco, facendo vivere sulle pelli degli uomini e delle donne di chiesa i brividi dell'inferno salito in superficie. Forse in centinaia di cose inventate e scritte nelle pagine della Bibbia, l'unica cosa che sono riusciti ad immaginarsi i suoi redattori è lo scenario dell'Apocalisse. Quell'Apocalisse che molto violentemente si è abbattuta sugli uomini e le donne delle istituzioni politiche, militari ed ecclesiastiche. Quelli che erano definiti morti viventi hanno iniziato a camminare in un altro modo sulla terra e con la rabbia in corpo sono pronti a riprendersi le loro menti definitivamente. In molte metropoli di IT01 la rivolta rientra dopo alcuni giorni, ma a Nazaro 13 il popolo ha superato il terrore della morte fisica ed è pronto a dare l'ultimo assalto alle autorità. I refrattarias, armati fino ai denti, sono all'uscita del tunnel. È l'ultima possibilità per tutti per distruggere secoli di dominazione. Uno dei primissimi dittatori della storia avrebbe detto: il dado è tratto. A questa i refrattarios aggiungono: in ogni caso, nessun rimorso. Yeah. volta sono in passato. Grande applauso, grande applauso. Non è per la 013 il brano del live anche. Dei Gas Nevada. Non era fatto apposta. È il brano che è così. Allora, diretta d'azione oggi lunedì 22 settembre, come tutti i lunedì, la diretta d'azione che comprende non solo controinformazione ma soprattutto la lettura. Leggiamo libri che, non lo ripeto ancora per l'ennesima volta, non sono testi anarchici, ma sono libri di narrativa che bene o male hanno qualche tematica affine. Poi, come avevo detto già sabato scorso, per chi ha ascoltato la diretta d'azione, in questo libro ci sono non solo i dritti, ma ci sono anche le dritte sui furti, che spiega bene Sergio Piasecki. Il libro è Nessuno ci salva, mi ero dimenticato di dirlo. L'autore, già avevamo letto già L'amante dell'orsa maggiore come ultimo libro della passata annata di Radiazione. Ricordiamo gli indirizzi utili: ora è tornata attiva la mail, quindi per chi vuole mandare testi comunicati, scritti, materiale da diffondere tramite il sito di Radiazione, lo può fare attraverso la posta elettronica radiazione@autistici.org. E seguire i consigli su cosa non mandare. E seguire sempre i consigli su cosa non mandare, altrimenti non lo vedrete pubblicato. Pace. Potete invece mandare dei consigli sui libri da leggere prossimamente dopo Nessuno ci salva, quindi avete almeno 3 mesi di tempo per ora per pensare a un libro, chi segue di solito le letture su Radiazione. Il sito di Radiazione è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast e scaricare materiale attraverso la pagina download. Tutto il materiale che viene messo a disposizione da vari compagni in tutto il mondo, libero da scaricare, senza un prezzo, senza copyright, senza... Quindi ci trovate manifesti, CD, opuscoli, libri, un bel po' di materiale. La radio trasmette sul server anarchia.net, lo ripeto, nuovissimo, cioè resta sempre il nome, ma un nuovissimo server messo sempre a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che salutiamo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Gang of Four e Tom is a Tourist, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. A Riprendiamo da dove ci siamo lasciati il lunedì scorso, dal momento che mettiamo a disposizione di chi ci ascolta, di chi ci vuole scaricare e riascoltarci in santa pace le puntate precedenti delle dirette d'azione anche sotto forma di podcast. Evitiamo un noioso riassunto delle puntate precedenti, anche perché se dovessimo farlo con questo testo, appunto, Nessuno ci salva di Sergius Piasecki, in realtà man mano che andiamo avanti perderemo metà della diretta a fare il riassunto delle puntate precedenti. Ricordiamo solamente che stiamo venendo dalla descrizione dell'avventuriero, degli avventurieri che ci accompagneranno in questa nostra lettura per le prossime puntate. Abbiamo quasi finito di vivere l'inverno e adesso vediamo come la primavera rubò il cuore a un ladro. La primavera era venuta in anticipo, irrequieta, pregna di umidità. Frusciava nei corsi d'acqua, nei rigagnoli, nel sangue e, col tepore del suo alito inebriante, discioglieva i cumuli di neve sporca. Il sonoro stillicidio delle gocce mormorava tutto intorno alle case, l'acqua piovana si intorbidiva nelle pozzanghere e i pensieri si intorbidivano nelle menti svagate. Oleg Baran, ladro di professione, si dirigeva quel giorno verso il centro della città. Era arrivato sulla quarantina ormai, non era alto di statura e il suo volto aveva una forma ovale, con gli occhi color della birra leggermente obliqui come quelli dei mongoli. Indossava una giubba aperta sul petto e un berretto con la visiera. I suoi stivali alti di ottima pelle luccicavano al sole. Baran aveva l'aspetto di un pacifico borghese se si fosse appena lavato e sbarbato accuratamente. Sul mignolo della mano sinistra portava un anello con un grosso rubino. Aveva lo sguardo calmo e un po' assorto, ma non c'era pericolo che i suoi vigili occhi a mandorla gli lasciassero sfuggire un solo particolare di ciò che accadeva intorno a lui. In essa. In essi si celava l'esperienza accumulata in 30 anni di professione di ladro. Oleg era anche parco di parole, equilibrato e tranquillo, ma tra i colleghi era talmente apprezzato per la serietà e l'astuzia con la quale lavorava, oltre che per la sua grande forza di carattere. Non usava quasi mai il gergo dei bassi fondi, considerando che ciò che fosse necessario soltanto alla marmaglia, che non era in grado di dimostrare diversamente la sua appartenenza al mondo dei dritti. Quel giorno Oleg non si stava accingendo a qualche nuova impresa, voleva semplicemente vedere un suo collega d'un tempo, un certo Kazik Moretsky, il quale, chissà perché, se l'era squagliata da Vilna ed era venuto a imboscarsi a Minsk, presso la ricettatrice chiamata Zipa, al mercato basso. Ma tuttavia l'incontro per quel giorno non ebbe luogo. Ad un certo momento Baran scorse una signora elegantemente vestita che, uscendo dal portone di una casa, metteva le chiavi nella borsetta. Il ladro fulmineamente dedusse che ella fosse uscita per qualche commissione, che l'appartamento fosse quindi vuoto o affidato alla vigilanza di bambini o di cani. E vi si poteva certamente trovare molta roba. Baran seguì la signora fino all'angolo della strada per assicurarsi che non tornasse indietro, accorgendosi magari di aver dimenticato qualcosa e per prendere buona nota della direzione che avrebbe presa. Ella si allontanò, dirigendosi verso la piazza della Trinità, dove quel giorno c'era appunto il mercato. E allora Oleg ritornò in fretta sui suoi passi. Non ho fatto bene a portare con me gli arnesi, pensò. Durante il giorno, se non aveva in vista qualche lavoro, Baran non portava di solito la sua borsa di professionista. Era troppo prudente per farlo, perché era purtroppo facile imbattersi in qualche agente in borghese munito di tesserino di riconoscimento che l'autorizzava a intimare il fermo e a perquisire ogni pacifico passante. Quel giorno però Oleg aveva portato i ferri del mestiere, pensando che avrebbero potuto servire all'amico Kazik. Entrando nel cortile, Baran scorse subito una porta chiusa con chiavistello e lucchetto americano. L'entrata era comoda perché invisibile dalle finestre degli altri appartamenti. Baran premette il bottone del campanello. Attese un po', ma non ebbe alcuna risposta. Allora forzò la porta, facendo saltare col piede di porco il lucchetto. Entrò quindi nell'alloggio. Lasciandosi dietro tutte le porte aperte, fece il giro delle stanze esaminandole rapidamente. Spalancò, sì, i battenti della finestra che dava sul giardino. E dopo questo primo giro di ispezione, tornò alla porta d'ingresso e la chiuse col grimaldello, lasciando nell'anello il lucchetto piuttosto malandato. Ora, nemmeno la padrona di casa avrebbe potuto indovinare dall'esterno che nel suo appartamento stava lavorando un ladro. Allora poi Oleg voltò l'angolo ed entrò nell'appartamento scavalcando la finestra aperta che richiuse dietro di sé. Anche quando improvvisava, come questa volta, in realtà Baran non andava mai via a mani vuote. Di solito però preferiva rimandare il lavoro ad un altro momento e intanto preparare i suoi piani o addirittura abbandonarlo quando fiutasse il più vago pericolo di far fiasco. Iniziò il rastrellamento della casa dalla camera da letto, dove vengono tenuti di solito gli oggetti preziosi. Dapprima rovistò nei cassetti dei comodini e in quelli della toeletta, poi venne il turno del comò. Lavorava con grande destrezza e abilità. Con un colpo solo usò il piede di porco per aprire un cassetto, rovesciandone poi il contenuto sul pavimento. Così aveva subito sotto gli occhi tutto ciò che c'era dentro. E metteva immediatamente in tasca le cose di valore e ammucchiava le altre degne di attenzione in mezzo alla stanza. Poi esplorò l'armadio dei vestiti e guardò sotto i quadri per vedere se esistesse magari qualche nascondiglio. Lo stesso fece con un grande orologio a muro. Era il posto classico dove i merli nascondevano il loro denaro. Dopo la camera da letto fu la volta della sala da pranzo, poi della dispensa e finalmente dello studio. Ispezionò accuratamente i cassetti della scrivania e tolse perfino il piano superiore a questa, dando un'occhiata panoramica all'interno dei tiretti. Cercava il secretaire. Tutte queste operazioni non erano durate più di un quarto d'ora. Pur lavorando con estrema attenzione, Baran aveva l'orecchio teso a ogni rumore esterno, procedeva sicuro di sé, rapido e preciso, nessun particolare sfuggiva ai suoi sensi vigili. Raccolse un cospicuo bottino: due vestiti da uomo quasi nudi, una pelliccia, un abito da donna, una giacca di persiano e un servizio di posate d'argento, e inoltre aveva anche intascato alcune monete d'oro, tre anelli, un braccialetto e un orologio d'oro da donna con una catenina. A un tratto si ricordò che Stach, il cocchiere, gli aveva chiesto di prelevare alla prima occasione un po' di biancheria per lui e per sua moglie, e dunque scelse quel che c'era di meglio e avvolse tutto in un lenzuolo, stringendo forte l'involto perché apparisse meno voluminoso possibile. Lo legò con uno spago e lo avvolse ancora in un grande foglio di carta. Così era di dimensioni piuttosto normali e non poteva destare sospetti. Con un pacco simile ci si poteva benissimo far vedere in strada. Con tutte le precauzioni di rito, Baran lasciò l'appartamento e si recò dritto filato dal ricettatore, al quale lasciò tutto. Benché qualcosa del suo bottino gli facesse gola e avrebbe voluto volentieri tenuto per sé qualche cosa, soprattutto la pelliccia e uno solo di quegli anelli, ma non si lasciò vincere dalla tentazione. Aveva un principio al quale si era sempre scrupolosamente attenuto: non tenere mai nulla del frutto del proprio lavoro. Era meglio comprare, pagando anche 5 volte di più, quello che desiderava avere, ma non conservare né regalare roba sospetta. Faceva eccezione solo per la biancheria, se però questa non era cifrata. Anche questa volta ne aveva preso un po' per Stash, il cocchiere, e per sua moglie. Stash non era un merlo, aveva fatto anche lui parte dei dritti un tempo, ma ora si era ritirato dagli affari, ma spesso aiutava i ragazzi a trasportare la refurtiva e a imballare la merce, e ogni tanto forniva delle utili indicazioni, segnalando sempre qualche impresa vantaggiosa. Outside, and the highway when it's late at night, got the rain. E questi erano The Modern Lovers con il brano Roadrunner, dopo la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. E come di consueto, ora si passa alla controinformazione. Controinformazione, si va in Cile, dove c'è una rivendicazione degli attacchi ai commissariati 39esimo Bosque e il primo di Santiago. Leggiamo direttamente il testo rivendicativo. L'11 agosto abbiamo realizzato un attacco ai commissariati 30esimo Bosco e primo Santiago. Abbiamo voluto dimostrare che è possibile colpire la polizia sotto il suo naso. Finì come avremmo voluto, e cioè con alcuni feriti tra le loro fila. Essi sono mortali e le loro leggi sono distruttibili. Ci piace vedere poliziotti feriti o morti sia negli scontri che negli atti di sabotaggio. Essi dovrebbero sapere che qualcuno di loro potrebbe affrontare lo stesso destino degli sbirri Moyano, Vera e Bobadilla. Tutti sono responsabili e volontari di appartenere ad un'istituzione militare che reprime la popolazione quotidianamente e ci ordinano di rispettare le leggi imposte dai potenti. Dovrebbe essere a loro chiaro che ogni aggressione che è stata commessa dai maiali del potere non è dimenticata, che la loro condizione di impunità non durerà a lungo, sono esseri umani mortali come tutti. Ci scontreremo con loro, ci sono tutte le ragioni per detestare l'esistenza della polizia. Di Ratis, che non si è riuscito a capire cosa significa e quindi non l'ho tradotto, l'ho lasciato così. Le forze repressive e i guardiani dei ricchi. Sono la forza militare della borghesia incaricata di reprimere e punire ogni tentativo di recuperare ciò che è stato accumulato per secoli grazie allo sfruttamento. Sia in rapine che in proteste, essi sono i responsabili di esercitare la paura sulla popolazione. La loro essenza è la difesa del sistema facendo in modo che ci sottomettiamo alle sue miserie. Essi ed i loro padroni devono essere colpiti e attaccati con tutti i mezzi e in tutte le loro forme. Ricordiamo ogni colpo dato e ci uniamo per la moltiplicazione degli attacchi diretti contro la loro autorità schifosa e per la preparazione minuziosa di materiale necessario a causare il danno desiderato. Ricordiamo e fratellizziamo con i compagni che hanno effettuato l'attacco fallito il 1 gennaio 2014 alla stazione 14esima in Ñuñoa. Avremmo voluto vedere anche noi come sarebbe esploso questo dispositivo potente e gioiamo per l'attacco alla stazione di Loprado. Inviamo i nostri saluti fraterni a tutte le famiglie e persone care di coloro che sono caduti per mano della polizia. Presente nelle nostre menti sono Mattias Carrileo, Johnny Caricheo, Claudio Lopez, Daniel Malinao, Javier Mendoza Collio. Tutti sono presenti, morti qui o in qualsiasi parte del mondo, essi sono parte della guerra sociale. Ci uniamo all'iniziativa dei compagni in Indonesia e siamo parte del CIV, Cospirazione Internazionale per la Vendetta. E questo era il testo, la prima notizia di controinformazione. Per quanto riguarda oggi, si cerca di partire sempre con notizie belle e quindi ci siamo riusciti anche oggi. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Psycho Beach, il brano è Breakdown e poi dopo si ritorna qui con Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Thank you. ed era già sera tarda quando Baran, sbucando di uno stretto vicolo nei pressi della sinagoga, uscì sulla provinciale per Logoyosk. Camminava adagio, cercando di insudiciarsi il meno possibile gli stivali nuovi. Si fermò di fronte ad una grande osteria che apparteneva a Sklam Goy, il quale gestiva un'impresa di trasporti tra Logoyosk e Borisov. Stacio il cocchiere aveva in affitto da Sklam una stalla e un piccolo alloggio in fondo al cortile. Baran si fermò un attimo davanti al portone e poi si avviò per attraversare il cortile che il disgelo aveva ridotto a un vero e proprio pantano. Avanzò lentamente, dirigendosi verso una luce che proveniva dalla finestra dell'alloggio del guardiano. Ad un tratto echeggiò nel cortile come una cascata di perle una risata seguita da piccole nervose grida di donne. «Smettila! Lo sai che non resisto al solletico! Ai ai!» E giù un'altra risata così contagiosa della sua travolgente allegria che per un estraneo difficilmente avrebbe potuto trattenersi dal sorridere. Baran si fermò e nello stesso istante le risa cessarono. Ora si udivano soltanto delle voci femminili provenire dal finestrino aperto. E una di esse si interrompeva continuamente come se dovesse essere seguita da un'altra risata. L'altra era bassa e sembrava piuttosto irritata. Oleg si avvicinò alla finestra chiusa a metà da una tenda. Dietro di essa, sul davanzale, si allineavano vasi di fiori. Guardò nell'interno della stanza e vide un paramento addossato alla parete che formava una macchia rossa sulla quale, alla luce della lampada, luccicavano farfalle ricamate in oro. Spiccando su quello sfondo purpureo davanti a uno specchio si ergeva come un fiore strano la figura di una ragazza. Era biondissima e rotondetta di forme, le sue braccia erano nude. Ai suoi piedi era inginocchiata un'altra donna molto più vecchia, probabilmente una sarta. La bionda stava provando un vestitino. Riflessa dallo specchio, la sua immagine appariva stranamente leggera, quasi irreale. E forse questa impressione era dovuta ai riflessi azzurri dell'abito nuovo rimandati dallo specchio, e forse alla luce viva della lampada o dal contrasto con la sarta vestita di scuro, o forse ai capelli fini e vaporosi della fanciulla e dalle candide spalle nude. Baran non riusciva a distogliere lo sguardo meravigliato da quell'apparizione. Gli pareva che la ragazza si librasse nell'aria, che lucesse come quelle farfalle d'oro sul paravento, e temeva di vederla scomparire da un momento all'altro. Ah! Di nuovo risuonò la risata di prima, colmando di calore il petto di Ole, che subito dopo udì la voce della sarta. «Non dimenarti così, potrei pungerti con uno spillo, ma mi fai il solletico!» Facendosi scudo con la mano per riparare gli occhi dalla luce della lampada, la bionda si chinò a destra e a sinistra, esaminandosi nello specchio. A un certo punto, piegandosi di fianco, scoprì due formosi polpacci. Se non avesse avuto davanti lo specchio, si sarebbe potuto pensare che facesse apposta a mettere in mostra le proprie bellezze davanti all'uomo che l'osservava acquattato dietro la finestra. Baran rimase a lungo immobile, e quando udì ancora lo stesso riso si ritirò dalla finestra, spinse sulla nuca il berretto e rimase un momento fermo con un sorriso estatico sulle labbra. Poi sospirò e con passo deciso si diresse, nonostante il fango, verso l'alloggio di Stack, il corriere. Il cocchiere. La serietà e l'esperienza di Stash non erano messe in discussione da nessuno. Con esse egli si era guadagnato la stima dei migliori dritti. Stash sdegnava di entrare nei rapporti con la marmaglia. Egli proveniva da Centenstova. Era stato un ladro sfortunato e aveva passato più giorni di galera che in libertà, e infine aveva deciso di recarsi a Varsavia, dove aveva ottenuto un posto di bidello presso un ginnasio pubblico. Trovandosi di continuo contatto con professori e studenti, aveva assimilato una quantità di nozioni e si era messo persino a parlare in stile fiorito, cosa che divertiva un mondo i suoi superiori e gli allievi. Imparò anche a leggere, ma non riuscì a superare la difficoltà della scrittura. L'unica cosa che sapesse scrivere erano le cifre arabe. Poi, chissà come, era finito a Vilna, e là aveva incominciato anche a rubare, e naturalmente era finito in carcere di nuovo. Fu proprio qui che conobbe Oleg Baran, che era già un famoso ladro di appartamenti. Rimesso in libertà, Stach abbandonò Vilna e, continuando la sua vita randagia, capitò quindi a Minsk. scelse qui la professione del cocchiere, si sposò e divenne una persona per bene, se si accetta il fatto che bazzicava sempre i dritti e, come si è detto, solo quelli di classe, trasportava merce di valore e in casi di emergenza dava asilo ai ragazzi ricercati della polizia, ai quali non mancava di suggerire all'occasione qualche affare. Aveva un occhio clinico, Stache. Grazie alla sua professione di vetturino aveva sempre a che fare con gente di ogni classe sociale e perciò, più di ogni altro, era in grado di valutare le occasioni che gli si presentavano. It's better than pleasure. It's more than pain. I've got what it takes to drive you insane. Now is the time to lose all control. Distort your body. Oh, it's just your soul. Control yourself. And baby, you had better twist it. You'll never, never, never resist it. Control yourself. Control yourself. In your brain, forget about your future. Get jealous, jealous, jealous. Just do tame. Control yourself. Oh, oh. I said you got to. I said you got to. You got to, you got to, you got to control yourself. You forget your affection for the human race. Reduce yourself to a zero, better than your fall right in place. Ah! Control yourself one time. Control yourself two times. Control yourself three times. Control yourself four times. Control yourself five times. Allora, ritorniamo alla controinformazione con una nuova notizia, un nuovo attacco specialmente. Si va a Salonicco in Grecia, dove è stata attaccata la banca del Pireo. Leggiamo il testo di rivendicazione: quando il nemico sembra essere forte usando ogni mezzo utile al fine di schiacciare tutto quello che si oppone, per le sue frustrazioni i simboli e le sue strutture sono una strada a senso unico. Ovunque guardiamo possiamo distinguere diverse forme di autorità, come gli sbirri, giudici, scuole, banche, chiese e carceri. Istituzioni appartenenti ad un sistema marcio ci ricordano ogni giorno che non siamo liberi. Il loro valore effettivo si noterà attraverso il disastro, dalle ceneri e le rovine, quando la loro bellezza emergerà. Mai più compromessi utilizzabili quando parliamo di qui e ora. Lasciate che la determinazione e la lotta continua prendano il loro posto. C'è una guerra non dichiarata in corso, nella quale altri mezzi sono mobilitati per la mente di ogni ribelle impenitente e anima per essere colpiti, quando non vi è alcun uso diretto delle armi. Le nuove carceri di massima sicurezza non hanno altre intenzioni se non lo sterminare. Giudici e pubblici ministeri, a sua volta, condannano in anni di reclusione solo per vendetta. Il procuratore Olga Smirli ha affermato esattamente questo ruolo nel processo riguardante la rapina in Pergedos a Larissa alla banca Ate, ora chiamata Banca del Pireo, dando generosamente a Naxakis e a Sarafudis 16 anni di carcere ciascuno, senza alcun indizio, ma per la loro identità politica. Noi siamo con i compagni in ogni caso, se hanno preso parte alla rapina o no, e dedichiamo a loro l'attacco presso la Banca del Pireo, avvenuto nella mattinata di mercoledì 10 settembre in Sikies, a Salonicco. Questo atto è un piccolo gesto di solidarietà e un messaggio da tutto che tutto continua, che ognuno combatti a modo suo, con qualsiasi dinamica e mezzi a disposizione fino alla fine, fino alla liberazione totale. Forza a Nikos Matsiotis e Pola Rupa, un pugno alzato per ogni ribelle. E questo era il testo di rivendicazione per l'attacco alla banca del Pireo. Seconda azione della giornata. Ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono gli Upright Citizens con una cover di Crisis e Holocaust, la cover. Penso che molti la conosceranno. E poi dopo si torna qui con Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. trovò l'amico in casa. «Cosa c'è di nuovo?» chiese Stash. «Beh, l'inverno si è dileguato ormai, già, già», disse Baran con un gesto che pareva volesse indicare la direzione verso la quale era fuggita la brutta stagione. Stash annuì col capo. Una tosse cavernosa lo squassò per qualche minuto, poi continuò a muovere per un po' le mascelle come se si dilettasse ad assaporare il catarro che aveva espettorato. Finalmente aprì la bocca, ma non incominciò subito a parlare. Pareva che attendesse che le parole gli salissero alla gola dal fondo della pancia. «Sì, la primavera è alle porte ormai. L'ondata di freddo è passata, ora sentiremo delle correnti africane», annunciò con aria solenne e con punta, respirando pesantemente. Baran si tolse il fango dalle scarpe con uno scopino, poi le lucidò con una striscia di velluto che portava sempre in tasca. Infine si sbottonò la giacca e tirò fuori il piccolo fagotto di biancheria che gettò sul letto. Stash e sua moglie Bronca, una donna piccola, pallida, si misero di aspetto. Guardarono i panni. Erano nuovi e di ottima qualità. «Ma quanto ti devo?» chiese Stash. «Niente». «Beh, ma non è giusto. Se proprio non vuoi nulla, beviamoci su, almeno un bicchiere non fa mai male. Bronca, fila a prendere la vodka», ordinò Stash alla moglie. E appena Bronca uscì dalla stanza, egli si affrettò a nascondere la biancheria in un baule e rivolgendosi a Oleg disse: «Domani stesso farò sparire questi blasoni», alludeva ai monogrammi ricamati sulla biancheria. «Non si sa mai cosa può succedere se non si è prudenti». «Giusto», approvò Baran. E quando Bronca tornò, gli amici si misero a tavola. Sorseggiavano ad agio la vodka, spiluccando salsiccia e cetrioli in salamoia. Anche la moglie di Stash, pur ostentando di farlo con malavoglia, tracannò diversi bicchierini. Stash ogni tanto era scosso da un violento accesso di tosse e ogni volta che l'attacco passava sbiascicava il catarro e ansava pesantemente. «Mi soffoca questa maledetta asma, è perfida come il reumatismo, solo che questo ti serpeggia per le ossa mentre l'asma fa saltare il cuore in bocca». Al momento che giudicò adatto, Baran, che era lucidissimo mentre Stash aveva già i fumi nella testa, chiese all'amico: «Che gente è quella che abita di fronte?» Da quando era entrato aveva questa domanda sulla punta della lingua, ma finora, senza sapere neppure lui il perché, aveva esitato e ora la buttò là come per caso. «Là di fronte», ripeté Stash, «ci sta il guardiano della casa. Bada ai ronzimi degli sclam, spazza il cortile, fa i servizi vari per gli altri e anche nelle stalle. Lo chiamano lepre perché a una festa nel sobborgo di Serebrianca qualcuno gli spaccò in due il labbro superiore. Ma non è poi un gran male, dato che si tratta di un grugno di ebreo. E quelle pulzelle che sono in casa sua?» «Pulzelle? Ma non hanno nulla di speciale, sono le sue sorelle. A una hanno dato il nomignolo di Curta perché ha le gambe corte come le tue braccia, per giunta storte. E anche quella che lavora per Sclam. L'altra, la Spilungona, fa la sarta, confeziona a macchina biancheria, mutande e altra roba del genere». Stash riprese a tossire e ingoiò a mo' di medicina una sorsata di vodka. Baran intanto prese nota che la ragazza alta, quella che lo interessava, non era della casa. Appena il cocchiere fu in grado di rispondere, gli chiese: «Senti, ma non viene ogni tanto una bionda qui, una maschietta con un bel musino e un paio di gambe che fanno venire davvero l'acquolina in bocca?» Stash rifletté un istante e poi disse: «Deve essere la Pavka, rotondetta un tantino butterata». Tamburellò con le dita sulla fronte, sulle gote e sul naso, indicando così i segni lasciati dal vaiolo. «Deve essere proprio lei, coi capelli di un color biondo bruciato. Si stava provando un vestito dalla sarta». «Oh, sì, sì, è proprio lei, Paolinka, o meglio Pavka», confermò Stash, sottolineando con le parole con dei pugni sul ginocchio che gli facevano saltellare la gamba. «Credo che sia la nipote del guardiano. È Nyura, Nyura è sua sorella, dico sorella di quel Vladek Lepre, e anche della Curta, si capisce. La Pavka capita spesso da loro, e una volta una cosa, una volta per un'altra, riesce sempre a rimediare qualche straccio da mettersi addosso. Dato che c'è una sarta in famiglia, non vedo perché non dovrebbe farlo. E alla Pavka non par vero di potersi agghindare. E non sarebbe già... capisci? No, no, no, no, non si è ancora sposata, diciamo. Materialmente è libera. È una ragazza con pepe e sale anche. Un po' usata, ma non ancora bucata, come dicono gli ebrei. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Era Hanin Elias, per chi non la conoscesse, la cantante anche di Atari Teenager Riot con il brano Under Pressure. Ora ripassiamo alla controinformazione con una rivendicazione di un attacco in Germania alla Bayer. Lo dividiamo in tre parti, anche perché sono tre parti che bene o male si possono suddividere, quindi le attenderemo con il racconto di Nessuno ci salva. Partiamo con il testo che inizia: Molotov contro l'oscenità delle condizioni, Molotov contro le vetture di Bayer. Nella notte del 26 e 27 luglio di quest'anno abbiamo lanciato varie Molotov su varie vetture della Bayer AG S.A., dando con questo il colpo di partenza alla nostra tendenza di lotta ecologica. Il testo si suddivide in paragrafi. Il primo paragrafo che leggiamo è veleni e sfruttamento. Nella prima guerra mondiale, Frieder Bayer et Company, poi diventata Bayer AG, produceva esplosivi e caucciù come agenti chimici di rilevanza bellica. Le difficoltà di rifornimento non erano causate dagli scrupoli, bensì dai rischi di sicurezza e della mancanza di forza di lavoro. Quando la guerra diventò guerra di trincea, si iniziò con l'applicazione strategica degli attacchi con il gas, per la quale Bayer forniva varie decine di migliaia di tonnellate di vari gas da combattimento. Non contenta del giro d'affari, la Friedrich Bayer et Company s'aggregò con varie altre ditte della chimica per formare una comunità di interesse sull'esempio dei trust americani dell'epoca. Lo smantellamento economico dopo la prima guerra mondiale durò poco e nel 1925, guidate dalla BASF, nove compagnie chimiche crearono la J.G. Farben. Inizialmente nel 1926 la J.B. Farben non era convinta delle aspirazioni dei nazionalsocialisti, ma si rese conto che la sua produzione di benzina sintetica non poteva funzionare senza essere sovvenzionata. Ancora nel 1932, un anno prima della vittoria elettorale della NSDAP, Partito Operaio Nazionalsocialista Tedesco, cercarono il contatto con Hitler ottenendone l'assicurazione di appoggio. Per garantire una stabilità di profitto, J.G. Farben si convinse dell'opportunità di contribuire con circa 400.000 Reichsmark, che era il marco tedesco, alle spese elettorali della NSDAP. Da allora la cooperazione con il regime nazionalsocialista fioriva quasi senza attriti. Quasi l'intero consiglio d'amministrazione si iscrisse al partito e la monopolizzazione fece di Farben la quarta impresa mondiale. Nella guerra civile spagnola supportava le orde franchiste di Franco con rifornimenti di denaro e a Guernica la Luftwaffe ebbe tra l'altro l'occasione di collaudare una bomba incendiaria della Farben sulla popolazione civile. Nella seconda guerra mondiale Farben produceva merce di rilevanza bellica e partecipò all'annientamento e allo sfruttamento di ex prigionieri del KZ, che erano i lager di concentramento. Per esempio l'agente antiparassitario Zyklon B era commercializzato da un'affiliata della Farben. Appena trovato un sito adatto alla produzione di benzina artificiale nei pressi di Auschwitz, iniziarono immediatamente gli interventi di Farben per l'impiego di lavoro forzato. Il membro di un'associazione goliardica ed eminente impiegato della BASF Farben, Karl Crouch, a metà febbraio del 1941 inviava una lettera a Hermann Göring con la richiesta di convincere Himmler ad impiegare degli ex prigionieri di Lager come operai nello stabilimento di Buna. Dalla collaborazione con Farben, Himmler si attendeva la fornitura di materiali necessari all'ampliamento di Auschwitz. In questo senso ordinò a Karl Wolff una stretta collaborazione con Farben. Il numero di operai coatti per Farben non bastava affatto per finire la costruzione dello stabilimento di Buna. Nel 1942 le SS assegnarono a Farben come minimo 3.000 operai coatti, ma la compagnia disse che ne aveva bisogno di 15.000. Anche il trattamento degli operai da parte delle guardie SS dava fastidio alla Farben, come anche la pianificazione generale del comando di lavoro e gli itinerari inutili dallo stabilimento al KZ. Concentrationslager. Lager di concentramento, campo di concentramento. Ma questa scontentezza non è affatto da confondere con umanità. I problemi di Farben con la situazione e le SS erano nell'ambito dello sfruttamento, che non poteva essere massimo per le vessazioni delle SS e gli itinerari superflui degli ex prigionieri del campo di concentramento, nonché causa l'assegnazione confusionaria ai comandi di lavoro. Il malcontento convinse Farben alla collaborazione con l'organizzazione TOT, ed infatti le cose migliorarono e furono forniti dei materiali edili. Nella primavera del 1942 11.200 persone lavorarono nella costruzione dello stabilimento di Buna, nonché nella produzione già avviata secondo Farben i prigionieri del campo di concentramento non erano ancora sufficientemente sfruttati, poiché effettivamente non lavoravano mai più di 2.000 alla volta. Per migliorare anche questo, la Farben perorò la costruzione di un lager extra ed il Buna Lager, come poi si sarebbe chiamato, effettivamente forniva un numero maggiore di prigionieri al campo di concentramento sfruttabili. La costruzione e la finzione dello stabilimento nell'interno periodo costò circa 25.000 vite umane per il trattamento da parte dell'SAS per malattie, sottonutrizione e pesantissimi lavori fisici. Tutto questo non solo succedeva sotto gli occhi della direzione della compagnia Farben, ma anche con il suo esplicito appoggio. Si creavano delle frizioni solo quando l'annientamento delle vittime del NS si sovrapponeva troppo all'ambito degli ex idonei al lavoro, di chi era sfruttabile. Coloro che erano finiti nelle grinfie delle SS diventarono massa da muovere, merce, una merce privata di ogni connotato umano, una merce acquistata da tante ditte, da aziende private, piccole e grandi, e che serviva degli interessi economici non giustificati solo con la guerra, ma intesi ad andare ben oltre la vittoria finale. Lo stabilimento, per la sua estensione, mole e poca protezione, cadde vittima delle bombe alleate e non fu mai del tutto determinato. Dopo la guerra Farben fu smantellata in varie aziende e così nasceva la Bayer AG. Con quasi ugual zelo continuò la sua opera di annientamento dell'uomo e della natura e con l'iniziativa Fondazione dell'Economia Tedesca tentò di disfarsi del suo periodo NS. La MG Militant Group nel 2001 reagiva a questa fondazione con l'invio di proiettili. Per il governo di Berliner Republik, l'industria tedesca, si trattava di una soluzione definitiva del problema, del punto finale in senso giuridico, che vogliono porre sotto i crimini che nel nazismo sono stati commessi da tedeschi ed imprese tedesche, MG. Una puntualizzazione: la Berliner Republik si intende la Germania dopo la caduta del muro di Berlino riunificata, quando tanti panni sporchi non lavati a ovest ma a est sono stati definitivamente lavati, per cui si intende la nuova Germania, quella con cui si ha tutt'oggi a che fare. Con la Merkel. Che i termini continuarono sotto altre forme, ecco quel che vogliamo dimostrare e constatare in modo militante. Per 5 anni irrorarono il Vietnam e il Laos con Legend Orange, un forte defogliante e veleno. Se dapprima irrorarono solo la copertura foresta pluviale, in un secondo momento l'esercito USA passò all'attacco delle culture per annientare la popolazione con la fame. La ditta Dow Chemical, Monsanto più Bayer AG, produsse Legend Orange per fornirlo all'esercito USA. Fu impiegato in più di 6.000 missioni entro 5 anni, irrorandone più di 40 milioni di litri. Ed ecco un déjà vu. Come nella prima guerra mondiale, si presentano strettoie nella fornitura e stoccaggio. Ovviamente tutto si svolse alla luce del sole, poiché, grazie all'enorme solidarietà internazionale, non si poteva mantenere segreto. Le distruzioni provocate dai veleni presenti nella gente ebbero ed hanno tuttora un impatto massiccio sull'ambiente e sull'uomo. La foresta pluviale si è rigenerata solo in parte e le mangrovie colpite sono state in alcuni casi totalmente distrutte. I veleni si introducono nel circuito alimentare dell'uomo e degli animali. All'epoca distrussero vaste parti delle popolazioni animali e provocarono danni tossici alle persone toccate direttamente dalla gente. Date le alterazioni genetiche che provoca, tuttora nascono dei bambini affetti da malformazioni. Noi, le persone con handicap, non le consideriamo meno dignitose, ma nascono in una società capitalista, con tutte le sue pretese di valorizzazione e i suoi pregiudizi che rende loro difficile la vita. Il governo USA elargisce solo microscopici risarcimenti, la Bayer AG non ne ha mai pagati. Quando nel 1987-1988 le popolazioni curde furono attaccate con i gas tossici Tabun, Sarin e S. Lord dall'Iraq, era di nuovo coinvolta la Bayer AG. Nel 1984 vendette le licenze per la produzione di sostanze idonee all'armamento chimico e fornì un impianto completo poi utilizzato per la produzione di gas tossici. E questa è la prima parte del testo di rivendicazione alle Molotov lanciate contro le auto della multinazionale Bayer. Poi ora ci ascoltiamo un brano, poi Nessuno ci salva e dopo la seconda parte. Baran salutò l'amico più presto del solito. Sperava di poter vedere ancora una volta dalla finestra Paolinka, di cui ora conosceva il nome, ma l'alloggio del guardiano era immerso adesso nell'oscurità. «Ma deve essere andata a casa», disse fra sé e sé. Attraversò il cortile e uscì in strada. Gli girava la testa per tutta la vodka che aveva ingerita e nello stesso tempo però si sentiva in preda ad una strana irrequietezza e a un vago senso di malinconia. Camminò a lungo, senza scopo né meta, non vedendo la strada né i passanti, senza un pensiero preciso nella testa. Intorno tutto si svegliava alla vita. Il disgelo aveva riempito d'acqua i fossati e dai tetti scivolavano qua e là pesanti blocchi di neve. La primavera si accingeva a fiorire in tutto il suo splendore, dalla terra ebra. L'aria rapiva selvaggi profumi come esalazione di fermentante mosto. Baran rientrò tardi nel suo covo. Caterina Sperda, proprietaria di due casette che avevano due alloggi ciascuna, lo aveva atteso a lungo a cena ed era decisamente preoccupata del ritardo. «L'avranno pizzicato», pensava tendendo l'orecchio ai passi dei rari passanti che transitavano dal vico Bondarev. Caterina Sperda aveva quasi 50 anni, ma era sana, robusta e ancora di aspetto piacente. Cambiava spesso amanti, reclutandoli per lo più tra i ladri o i loro compari, e non si offendeva mai quando veniva piantata. Ora conviveva con Baran da 2 mesi, cioè dall'arrivo di lui a Minsk, e ambedue erano molto soddisfatti l'uno dell'altra. Baran si trovava al sicuro in casa dell'amante, come in pochi altri covi, e Caterina, dal canto suo, era fiera di aver beccato un professionista di classe, pulito, ben vestito, che non bestemmiava mai ed era sempre così calmo. «Un vero conte», pensava di lui Sperda. Quando Baran tornò a casa, Caterina gli offrì di servirgli la cena, ma egli rifiutò, trangugiò solo un bicchiere di latte e andò subito a coricarsi. Supino sul letto, accese una sigaretta. Caterina chiuse la porta a catenaccia e incominciò a svestirsi. Seduta sull'orlo del letto, si toglieva lentamente le calze, mettendo in mostra le sue rotonde e bianche ginocchia. Ma questa volta Baran sembrava non accorgersi affatto di lei. «Ormai la primavera non si farà attendere molto, ti pare?» lo interpellò prudentemente Caterina, lasciando pendere la gamba sinistra dal letto e togliendo la calza dalla destra sollevata in aria. Mugolò Baran fissando il soggitto. Soffitto. Caterina emise un sospiro. «Ma deve essere stanco», pensò. Poi soffiò sulla lampada a petrolio e si arrampicò per dormire sulla stufa grande e bassa. Le piaceva il tepore e la stufa era così ben riscaldata che sarebbe stato un vero peccato non approfittarlo. Baran continuava a fumare e a rigirarsi nel letto. Aveva sempre davanti agli occhi la ragazza apparsagli alla luce della lampada nell'alloggio del guardiano Vladek Lepre. Ma come gli era piaciuta! Aveva un sorriso così incantevole e due occhi che brillavano come stelle. Le guance leggermente colorite erano incorniciate dai capelli bellissimi e vaporosi. Perfetta era la tornitura delle spalle, delle braccia, del collo e delle gambe. Tutta la sua figurina appariva leggera, leggera, così appropriata a quel riso argentino che l'aveva immobilizzato dietro la finestra col fiato sospeso e il cuore che gli batteva sempre più forte nel petto. «Paola, Paolinka, Pavka!» continuava a ripetere sorridendo nell'oscurità mentre fumava una sigaretta dopo l'altra. Oh, non era forse la primavera a fargli vedere tutto sotto una luce così suggestiva? La primavera, incantatrice, affascinante, folle che, senza pensarci su due volte, si impadronisce del cuore di un principe come di quello di un ladro. Per lei, sono tutti soltanto uomini che devono obbedire alle stesse leggi di natura, tutti ugualmente deboli di fronte a questa, la primavera. Si diletta a giocare dei tiri birboni perché è sempre giovane e le piace ridere e scherzare. On fire, you cannot choose between. closer to me. It's you that I need. Decide what you want. Give it to me. My body is yearning and it's agony. Penetrate me. I'm invaded. Your right of passage leaves me degraded. Stimulated passion I have to endure. Ritual pleasure, there is no cure. Crucify me, why couldn't I see? My blood splattered body was in ecstasy. Sex, pain, pain, pleasure, eternal torture lasts forever. Crucify me, why couldn't I see? My blood splattered body was in ecstasy. Sex, pain, pain, pleasure, eternal torture lasts forever. Questi erano Etemai con il brano Eternal Torture. Ora si ripassa al testo dell'attacco alla Bayer con il secondo paragrafo del testo rivendicativo. Lo ricordo, lo stesso testo è suddiviso in tre paragrafi che si decide di leggere non tutto insieme, proprio perché altrimenti diventa pesante, non si capisce un cazzo. Allora, il terzo paragrafo è attacco alle basi della vita. Mediante la biopirateria, le grandi compagnie agricole e chimiche tentano di accaparrarsi dei brevetti per rendere giuridicamente loro proprietà determinate piante, determinati animali e geni. Naturalmente anche Bayer. Secondo ricerche pubblicate dall'Istituto USA Edwards, Bayer produce il medicinale Glucobay per il trattamento del diabete con l'ausilio di un batterio proveniente dal lago Kenyota di Ruiro. La ditta confermò al giornale britannico Independent che impiega questa varietà batterica trovata in Kenya, ma nella cifra d'affari annuale con Glucobay di circa 280 milioni di euro neanche un centesimo va all'Africa orientale. Altre imprese che usano questo metodo sono Syngenta, BASF, Dow, Monsanto e DuPont. In Messico è prevista una riserva naturale biosfera con l'opportunità per imprese come Bayer AG e Monsanto di sfruttare scientificamente la natura vergine. Ma c'è un ostacolo, gente che vive lì da sempre con un rapporto con il proprio ambiente decisamente migliore di quello che attua Bayer AG in tutto il mondo. La compagnia per la collaborazione internazionale finanzia la riserva biosfera naturale appoggiata dal governo regionale. Questo è strettamente legato al Partito Rivoluzionario Istituzionale, PRI, che a sua volta collabora con i paramilitari di destra. La situazione in Chiapas negli ultimi mesi è di nuovo soggetta a un'escalation attuata dal governo messicano e dai paramilitari, con uno zapatista assassinato e 15 feriti gravemente. Sono passati già più di 20 anni dall'introduzione dei veleni agricoli Poncho e Gaucho di Bayer AG, sono impiegati massicciamente in agricoltura come antiparassitari, dove non agiscono solo contro i parassiti che si vuole contrastare, ma attaccano anche le api. La moria delle api è dovuta, oltre alla varroa, anche all'impiego di pesticidi che forniscono nel terreno e nel circuito dell'acqua, danneggiando così anche i pesci e gli uccelli, i vermi ed un'infinità di altre specie. Così avvelenano ed alterano i circuiti naturali in profondità e in misura molto più massiccia di quel che è capace la distruzione di una foresta. Non per dire che questa sia di minore entità, ma che la prima succede in modo meno visibile. La regolamentazione EU USA sui sementi favorisce le multinazionali agricole come la Bayer AG. Le piante che non corrispondono agli interessi di profitto dell'industria alimentare e dalle sue norme non sono più né coltivate né ammesse alla commercializzazione. Le monoculture di piante per l'esportazione e per la produzione di benzina biologica, come per esempio la colza, nei decenni hanno portato ad una moria di ogni sorta di specie, che è una delle principali cause della fame nel mondo. Negli ultimi 100 anni è sparito circa il 75% di tutte le specie vegetali note per la produzione alimentare. La riduzione a poche specie rende più vulnerabile l'agricoltura mondiale ai cambiamenti ambientali ed espone, laddove non ne sono già pienamente colpite, milioni di persone al rischio di una crisi della fame. Le poche specie coltivate sono decise dalle agromultinazionali e commercializzate dalle stesse. Quel che minaccia tutti ed ognuno si chiama tecnologia Terminator. In pratica, per esempio, un seme di una varietà di mais alterato mediante la tecnologia Terminator non si può più seminare e questi semi sono rovinati in modo che non producano più frutti e piante degenerate, un processo che peggiora con ogni generazione. Le tendenze alla monocoltura, alle piante per l'esportazione, al land grabbing, accaparramento massiccio di terreni dei grandi paesi ed attori economici nei cosiddetti paesi sottosviluppati, ma non solo, il fenomeno interessa per esempio anche zone come l'ex DDR. Alle tecnologie Terminator esistono già da decenni, ma ora si intensificano notevolmente. Anzitutto, l'affermazione giuridica è un processo degli ultimi anni. Nel contempo assistiamo ad una monopolizzazione mai così avanzata come ora. Le 10 più grandi multinazionali delle sementi agricole controllano già il 74% del commercio mondiale delle sementi e nuovi decreti rafforzeranno ancora la nostra dipendenza da queste multinazionali. E questo era il secondo paragrafo di questo testo che rivendica l'attacco alla Bayer. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Psychobombs con il brano Eat e poi dopo si ritorna con Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Yeah. maestro del grimaldello si presenta come maestro della lesina. In mezzo a un grande cortile trasandato giocava un gruppo di bambini, tre maschietti tra i 9 e i 12 anni e due ragazzine. E dietro a questi bambini scorazzava allegramente un cucciolo bastardo di qualche mese, nero come la pece. Il cuore della bestiola esultava dalla gioia e dalla gran voglia di mostrare ai suoi compagni di gioco la fervida simpatia e la sincera devozione che provava per loro. Il bastardo non aveva padrone, non era di nessuno e non si sapeva dove fosse capitato in quel cortile e soprattutto perché vi fosse rimasto. Gli inquilini della casa, abituati a vedere quel cane nel cortile, gli avevano dato un nome: Zuc. Talvolta qualcuno gli gettava un osso o un tozzo di pan secco, talaltra lo coprivano di botte. A ogni modo, non era più un cane randagio. Si era anzi abituato a vivere nel cortile di quella casa e dimostrava molta, ma molta benevolenza a tutti quelli che vi abitavano, facendosi in quattro per rendersi utile, per servire, per accontentare tutti. I ragazzi erano i suoi instancabili tormentatori e lo sottoponevano a ogni sorta di crudeli esperimenti che facevano guaire di spavento, di dolore il povero Zuc. Ma un istante dopo tutto era dimenticato e il cucciolo scodinzolava di nuovo, correndo e saltellando dietro all'allegra combriccola. I bambini sono indubbiamente creature deliziose e sono anche l'avvenire della nazione, ma non occorre molta perspicacia per comprendere che alla base del carattere infantile c'è la crudeltà, dopo la quale viene subito dopo l'egoismo. È l'educazione che addolcisce questi tratti essenziali della loro indole, respingendoli nell'ombre dove, forse, rimangono assopiti. E quel giorno i ragazzi erano più fantasiosi e intraprendenti. Il cane si trovava in mezzo al gruppo come uno di loro e non capiva i giochi dei suoi amici, ma la loro allegria si comunicava anche a lui. Abbaiava, saltellava e faceva rapide puntate verso il cieco, manifestando in tutti i modi la sua esultanza. Quando non ebbero più fiato per ridere, uno dei ragazzi propose di giocare alla miniera. In uno degli angoli del cortile c'era un vecchio pozzo abbandonato. Nessuno se ne serviva più da molto tempo perché l'acqua col trascorrere degli anni era completamente scomparsa. Nel fondo rimaneva solo un po' di melma che la pioggia ogni tanto rendeva più acquosa. I bambini tirarono fuori da ogni dove delle corde e si misero a costruire un ascensore. Appena fu finito, sorse il problema: chi deve essere calato giù per primo? Zuc, si capisce, disse la maggiore delle due bambine. Tutti approvarono, il bastardo venne acchiappato e messo in una cassetta di legno appesa su quattro corde sopra il pozzo. Era sì un po' spaventato, ma la sua fiducia negli uomini gli impediva di palesare questo sentimento e tanto più di protestare con energia. Anzi, vedendosi in pericolo, cercò con moine e piccoli guaiti di far capire che avrebbe gradito di essere liberato da quella precaria situazione, ma nulla valse a commuovere i suoi aguzzini e l'ascensore cominciò a scendere nel pozzo mentre Zuc si accovacciava tutto tremante sul fondo della cassetta. In questo momento avviene una catastrofe, disse il maggiore dei ragazzi. Cave non reggono e la cabina dell'ascensore precipita. Le corde, sì, furono lasciate, la cassetta sbattendo e rimbalzando contro le pareti ineguali del pozzo piombò con un gran tonfo nel fondo. E subito dopo si udì il disperato guaito di Zuc. I bambini guardarono giù, ma l'oscurità che regnava nel pozzo impediva loro di vedere la loro vittima. E allora a qualcuno venne l'idea di far cadere dentro dei pezzi di carta accesa affinché a loro bagliore potessero essere valutate le conseguenze della catastrofe nella miniera. Ma i pezzi di carta si spegnevano prima di toccare il fondo. Il cane ferito cadde, rovesciandosi dalla cassetta, e si trovò immerso quasi completamente nella melma. Dopo grandi sforzi riuscì a esarsi sulla cassetta che gli era caduta davvero vicino, guardava in su e vedeva l'orlo del pozzo coronato da una ghirlanda di teste infantili. Si mise a guaire, a gemere e scongiurare i suoi amici di poco prima perché lo salvassero da quel nero abisso. Aveva ancora fede negli uomini, ma i suoi appelli disperati non ebbero altra risposta che delle falde di fuoco che scendevano lentamente su di lui, riempendolo di terrore. Tremava tutto e si stringeva all'umida parete del pozzo. Ma le fiamme non lo raggiunsero ed egli si mise ancora una volta a invocare aiuto. Non riusciva a comprendere quello che era successo, perché era stato punito così crudelmente e in che cosa aveva mancato. Voleva un bene matto, lui a quei bambini aveva sempre preso parte, ai loro giochi e alla loro allegria. Aveva sempre cercato di indovinare i loro minimi desideri, era stato per loro un amico fedele ed affezionato. Improvvisamente una grossa pietra cadde nel pozzo, poi un'altra, poi una vera pioggia di pietre si abbatté sull'infelice Zuc. I bambini parevano impazziti, correvano per il cortile, raccoglievano pietre, mattoni, rottami arrugginiti, pezzi di legno e scagliavano tutto nel pozzo, sperandosi di colpire il cane, dato che non riuscivano a vederlo. Una delle pietre spezzò la zampa al cucciolo mentre gli procurarono dolose scoriazioni. Il bastardo cercava affannosamente una via di scampo, strisciò nella melma che copriva il fondo del pozzo e si infilò sotto la cassetta. Immerso per metà in quella melma viscida, gelida e puzzolente, giaceva al riparo della cassetta, tremando dal freddo e dalla paura. Dall'alto intanto continuavano a piovere sassi, urtavano rimbalzando contro le pareti del pozzo, percutevano con fracasso la cassetta e infine cadevano nella melma che schizzava tutto intorno. Dopo un po' il bombardamento cessò. In alto, all'imboccatura del pozzo, apparve di nuovo la ghirlanda di visi infantili che scrutavano nel fondo pieno di tenebra, tendendo l'orecchio. Silenzio. Infine una voce gridò, subito seguita da altre: Zuc, Zuc, Toto, Zuc. Silenzio. Il cane non diede segno di aver udito il richiamo. Questi erano NoiseFX con il brano Kill a Brain. Ora si continua con l'ultimo paragrafo del testo rivendicativo dell'attacco contro la Bayer, dal titolo Contro l'oscenità delle condizioni. Tutti questi esempi sono tali. Bayer AG partecipa a tantissime altre distruzioni e non è l'unica e nemmeno poco nota per questa. Anche se la concretezza dei casi citati non sarà nota a chiunque, gran parte della popolazione tuttavia sa bene che i pesticidi sono nocivi. Similmente al rifiuto dell'ingegneria genetica, tuttavia ci sono delle continue offensive ed aggressioni lobbistiche delle multinazionali agricole e spesse hanno in gran parte successo. Un ricorso ai tribunali e ai leader statali non possono essere il piano di scontro quando si tratta di compagnie miliardarie. Denunce e processi in tribunale possono semmai portare a dei piccoli cambiamenti che dopo alcuni anni e qualche milione sono di nuovo annullati. Una messa in questione fondamentale della ragione d'essere di compagnie come Bayer AG non avverrà mai su questo piano. La società deve comprendere chiaramente i rapporti totalitari del capitale e sottrarsi. Così non è neanche minimamente possibile, si può tranquillamente affermare in generale, ma è dimostrabile anche a livello di pratica spicciola. Così nelle notizie sugli interventi Antifa contro una bettola collaborante con i nazi fu riportato che fra gli ospiti ci sono anche i manager di Bayer AG. La responsabilità delle proprie azioni sarà anche da considerarsi maggiore se collocata entro una visione decisamente nazionalsocialista che quella di una mera esecuzione delle direttive di profitto. Tuttavia, questo confronto passivo tra nazi e manager della Bayer AG dimostra la natura della coscienza riscontrata, che se ne frega dell'appropriazione da parte di una ditta di un enorme terreno, delle videocamere che riprendono le strade, dell'architettura securitaria ed anche della cinica pubblicità Bayer Science for More Profit, e citiamo Thomas Joseph Dunning. Il capitale è terrorizzato dall'assenza di profitto o da un profitto molto piccolo come lo è la natura del vuoto. Con il corrispondente profitto il capitale diventa ardito, 10% certi e si può applicare ovunque, 20% e si fa vivace, 50% è positivamente spericolato, per un 100% calpesta ogni legge umana, 300% e non esiste più crimine che non sia disposto a commettere, addirittura rischiando la forca. È stata infatti l'architettura securitaria che ha praticamente sventato il nostro attacco. Ci siamo avvicinati dal retro passando i binari ferroviari e purtroppo ci siamo ritrovati davanti a un doppio steccato munito di telecamere che la ditta fosse munita di sorveglianza 24 su 24 a tempo reale con guardia ci era noto, perciò abbiamo scelto la Molotov, tuttavia la distanza era troppo e non siamo riusciti a danneggiare i veicoli parcheggiati. Abbiamo deciso di pubblicare lo stesso la dichiarazione, considerandola anche come un appello ad attaccare la Bayer AG in luoghi meno protetti e a trovare metodi migliori. L'intero fallimento pratico dimostra anche i limiti che possono avere gli interventi militanti. Una compagnia come Bayer può tranquillamente spendere varie centinaia di migliaia di euro per la realizzazione e il mantenimento di un concetto di sicurezza, e se ci fosse una precisione militante maggiore potrebbe investire anche molto di più. Per questa ragione vogliamo di nuovo affermare che la militanza è solo uno dei mezzi della resistenza. La distruzione perpetrata in tutto il mondo dal capitalismo contro l'uomo, gli animali e la natura rende necessario un movimento al quale possono aggregarsi tutti ed ognuno, capace di comprendere i valori di una vita migliore e capace di realizzare questi stessi valori. Per ora sembrano fattibili solo le lotte di difesa, come se fossimo un gruppo di Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento quando gettano delle molotov in un cortile sul retro. Ma è anche vero che Don Chisciotte, con le sue idee obsolete sulla decenza e la dignità, come anche sui valori da salvaguardare, fece coraggio a chi combatteva al suo fianco. Noi ci opponiamo alla normalità distruttiva ed innalziamo dei fari nell'oscurità. sappiamo di non essere soli e vediamo gli altri fari. Una società solidale è possibile, l'autosostentamento non nocivo è fattibile, una coesistenza con i processi naturali facendo meno danni possibili è fattibile. Respingiamo l'oscenità dei rapporti capitalisti e indichiamo i nostri amici in Messico. Salutiamo tutte le cellule dell'Alf Elf che liberano i campi, il vulcano Grimstone e i compagni che per la liberazione della terra, degli animali e dell'uomo sono nelle galere della democrazia. Per una società dove la dignità, la libertà, la giustizia e la natura hanno di nuovo un futuro senza terrore e veleni. Gruppo informale Eco Struggle Tendencies. E questo era il testo tradotto dal compagno Marco Kamenisch di 2 mesi fa, perché l'attacco è avvenuto a fine luglio e solo ora ci arriva il testo tradotto da Marco. Allora, con oggi la diretta d'azione termina qua e ricordiamo il prossimo appuntamento che è per venerdì 26 con controinformazioni, riflessioni, anche provocazioni ovviamente, e musica. A tutti una buona serata. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Informazioni, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Controinformazioni, letture, provocazioni,